ad alta voce. Alba Rohrbacher legge Agostino di Alberto Moravia. Rimasto solo, Agostino aspettò una decina di minuti che la madre si fosse allontanata. Poi discese dalla branda, spense la luce e in punta di piedi andò nella stanza attigua. Cercò a tastoni il tavolo presso la finestra, aprì il cassetto e si riempì le tasche delle monete e dei biglietti. Finito che ebbe, passò il lungo e il largo una mano nel cassetto per vedere se fosse veramente vuoto e uscì dalla stanza. Come fu nella strada, prese a correre. Il Tortim abitava quasi dall'altro capo della città, in un quartiere di calafati e di marinai. E sebbene la città fosse piccola, era sempre un bel tratto. Prese per le strade oscure, a ridosso della pineta, e ora camminando in fretta o addirittura correndo, andò dritto sino a quando non vide spuntare, tra le case, le alberature dei velieri attraccati nella darsena. La casa del Tortim sorgeva sulla darsena, al di là del ponte apribile di ferro che scavalcava il canale del porto. Di giorno era un luogo antico e decaduto, con casupole e bottegucce allineate su ampie banchine deserte e piene di sole, odore di pesce e di catrame, acque verdi e oleose, gru immobili e chiatte piene di brecciame. Ma ora, la notte, lo rendeva simile a tutti gli altri luoghi della città. E soltanto un gran veliero, sopravanzando i marciapiedi con tutti i fianchi e le alberature, rivelava la presenza delle acque portuali profondamente incassate tra le case. Era un veliero lungo e bruno. Molto in su, tra i cordami, si vedevano brillare le stelle. Secondo il flusso ed il riflusso del canale, pareva che tutta l'alberatura e la massa dello scafo si muovessero appena, silenziosamente. Agostino passò il ponte e si diresse verso la fila delle case allineate sulla sponda opposta del canale. Qualche fanale illuminava inugualmente le facciate di queste casupole. Agostino si fermò sotto una finestra spalancata e illuminata, da cui partiva un rumore di voci e di stoviglie, come di gente che stesse pranzando. E, portata una mano sulla bocca, modulò un fischio forte e due più sottili, che era un segnale convenuto tra i ragazzi della banda. Quasi subito qualcuno si affacciò alla finestra. «Sono io, Pisa!» disse Agostino con voce bassa e intimidita. «Vengo!» rispose il Tortim, poiché era proprio lui. Il Tortim discese e gli si presentò con un viso tutto congestionato dal vino bevuto, masticando ancora il boccone. «Sono venuto per andare a quella villa!» disse Agostino. «Ho qui i soldi, per tutte e due!» Il Tortim inghiottì con sforzo e lo guardò. «Quella villa, in fondo alla piazza!» ripeté Agostino. «Dove ci sono le donne?» «Ah!» fece il Tortim comprendendo finalmente. «Ci hai ripensato! Bravo, Pisa! Ora vengo subito con te!» Egli corse via e Agostino rimase nella strada, a camminare in su e in giù, con gli occhi rivolti alla finestra del Tortim. Costui lo fece aspettare un pezzo e quando si ripresentò, Agostino quasi non lo riconobbe. L'aveva sempre visto ragazzotto in pantaloni rimboccati, oppure seminudo sulla spiaggia in mare. Ora gli era davanti una specie di giovane operaio nei vestiti scuri della festa, pantaloni lunghi, giubba, colletto, cravatta. Pareva più vecchio, anche per via della pomata con cui aveva reso lisci e compatti i suoi capelli di solito arruffati. E nei panni lindi e comuni rivelava per la prima volta agli occhi di Agostino una sua qualità melensamente cittadina. «Ora andiamo», disse il Tortim avviandosi. «Ma è l'ora?» domandò Agostino correndogli a fianco e imboccando con lui il ponte di ferro. «È sempre l'ora lì», rispose il Tortim con un riso. Presero per strade diverse da quelle che Agostino aveva percorso venendo. La piazza non era molto lontana, appena due strade più in là. «Ma tu ci sei già stato?» domandò Agostino. «In quella lì, no». Il Tortima non pareva aver fretta e il suo passo era quello consueto. «Ora hanno appena finito di mangiare, non ci sarà nessuno», spiegò. «È il momento buono». «Perché?» domandò Agostino. «Oh bella, perché così potremo scegliere a nostro agio quella che più ci piace». «Ma quante sono?» «Saranno 4 o 5». Agostino avrebbe voluto domandare se erano belle, ma si trattenne. «Ma come si fa?» interrogò. Il Tortima gliel'aveva già detto, ma permanendo in lui quel senso invincibile di irrealtà, provava il bisogno di sentirselo riconfermare. «Come si fa?» disse il Tortima. «È semplicissimo. Si va dentro, poi loro si presentano, si dice buonasera signorine, si finge di chiacchierare un poco, tanto per avere il tempo di guardare ben bene, e poi se ne sceglie una. È la prima volta, eh?» «Veramente?» incominciò Agostino un po' vergognoso. «Va là!» disse il Tortima con brutalità. «Non vorrà mica dirmi che non è la prima volta. Queste frottole raccontala agli altri, non a me. Ma non temere!» soggiunse con un accento curioso. «Come sarebbe a dire?» «Non temere, dico! La donna fa tutto lei, lascia fare a lei!» Agostino non disse nulla. Quest'immagine evocata dal Tortima della donna che l'avrebbe introdotto all'amore gli piaceva e gli riusciva dolce e quasi materna. Tuttavia, nonostante queste informazioni, sussisteva in lui l'incredulità. «Ma mi vorranno a me?» domandò fermandosi e dando un'occhiata alle sue gambe nude. La domanda parve per un momento imbarazzare il Tortima. «Ora andiamo», disse con una falsa disinvoltura. «Poi una volta lì si troverà il modo di farti passare». Da una straducola sbucarono nella piazza. Tutta la piazza era al buio, salvo un angolo dove un fanale illuminava della sua luce tranquilla un gran tratto di terreno sabbioso e ineguale. Nel cielo, proprio si sarebbe detto al di sopra della piazza, una falce di luna pendeva, rossa e fumosa, tagliata in due da un sottile filamento di nebbia. Dove l'oscurità era più fitta, Agostino scoprì la villa riconoscendola dalle persiane bianche. Erano tutte serrate e non un filo di luce ne trapelava. Il Tortima si diresse con sicurezza verso la villa, ma come furono nel mezzo della piazza, sotto la falce della luna, disse ad Agostino: «Dammi i soldi, è meglio che li tenga io». «Ma io?» incominciò Agostino, che non si fidava del Tortima. «Vuoi darmeli sì o no?» insistette il Tortima brutalmente. Agostino, vergognoso per tutti quegli spiccioli, ubbidì e vuotò le tasche nelle mani del compagno. «Ora chiudi la bocca e seguimi», disse il Tortima. Avvicinandosi alla villa, le tenebre si schiarirono. Apparvero i due pilastri del cancello, il viale e il portone sotto la pensilina. Il cancello era accostato, il Tortima lo spinse ed entrò nel giardino. Anche la porta era socchiusa, il Tortima salì i gradini e dopo aver fatto ad Agostino un cenno di silenzio, entrò. Si rivelò, agli occhi incuriositi di Agostino, un breve vestibolo affatto nudo, in fondo al quale una porta a due battenti, dai vetri rossi e azzurri, splendeva di luce chiara. Il loro ingresso aveva scatenato una suoneria scampanellante. Quasi subito un'ombra massiccia, come di persona seduta che si alzi, si profilò dietro i vetri, e una donna comparve tra i due battenti. Era una specie di cameriera, corpulenta e matura, con un vasto petto vestito di nero e un grembiale bianco legato alla cintola. Comparve avanzando il ventre, le braccia penzolanti, il viso gonfio, immusonito e sospettoso sotto la sporgenza dei capelli. «Siamo qui», disse il Tortima. Dalla voce e dall'atteggiamento, Agostino comprese che anche il Tortima, di solito così spavaldo, era intimidito. La donna li scrutò un momento senza benevolenza, quindi, in silenzio, accennò al Tortima come per invitarlo a passare. Il Tortima sorrise rinfrancato e si slanciò verso la porta a vetri. Agostino fece per seguirlo. «Tu no!» disse la donna fermandolo per la spalla. «Come?» domandò Agostino, perdendo ad un tratto la timidezza. «Lui sì e io no!» «Veramente nessuno dei due!» disse la donna guardandolo fisso. «Ma passi per lui, tu no!» «Sei troppo piccolo, Pisa!» disse il Tortima beffardo, e spinta la porta a battenti, scomparve. La sua ombra tozza si disegnò per un momento dietro i vetri, quindi svanì in quella luce splendente. «Ma io!» insistette Agostino, esasperato dal tradimento del Tortima. «Via, ragazzo, torna a casa!» disse la donna. Ella andò alla porta, la spalancò e si trovò faccia a faccia con due uomini che entravano. «Buonasera, buonasera», disse il primo di quelli, un uomo dalla faccia rossa e gioviale. «Siamo intesi, eh?» soggiunse rivolto al compagno, un biondo smilzo e pallido. «Se la pina è libera, la prendo io, non facciamo scherzi». «Siamo intesi», disse quello. «E questo qui che vuole?» domandò l'uomo gioviale alla donna, indicando Agostino. «Voleva entrare?» disse la donna. Un sorriso adulatorio le si disegnò sulle labbra. «Volevi entrare?» gridò l'uomo rivolto ad Agostino. «Volevi entrare? Alla tua età, a quest'ora, si sta a casa! A casa! A casa!» gridò, agitando le braccia. «È quello che gli ho detto!» rispose la donna. «E se lo facessimo entrare?» osservò il biondo. «Io alla sua età facevo già l'amore con la serva». «Ma che? A casa! A casa!» gridò l'uomo infatuato. «A casa!» Seguito dal biondo, si ingolfò oltre la porta, i cui battenti sbatterono con violenza. Agostino, senza neppur rendersi conto di come fosse avvenuto, si ritrovò di fuori, nel giardino. Così tutto era finito male, pensò. Il Tortima l'aveva tradito, prendendogli i quattrini, e lui era stato scacciato. Non sapendo che fare, retrocedette sul viale, guardando alla porta socchiusa, alla pensilina, alla facciata che la sormontava con tutte le sue bianche persiane serrate. Provava un senso bruciante di disappunto, soprattutto per via di quei due che l'avevano trattato a quel modo, come un bambino. Gli strilli dell'uomo gioviale, la benevolenza fredda e sperimentale del biondo, gli parevano non meno umilianti della smorta e inespressiva ostilità della guardiana. Sempre retrocedendo, guardandosi intorno e spiando gli alberi e i cespugli del buio giardino, si avviò verso il cancello. Ma qui osservò che tutta una parte del giardino, sul lato sinistro della villa, appariva illuminata da una luce forte che sembrava partire da una finestra aperta del pian terreno. Gli venne in mente che attraverso quella finestra avrebbe potuto almeno gettare uno sguardo nella villa. E procurando di far meno rumore che fosse possibile, si avvicinò alla luce. Come aveva pensato, era una finestra a pian terreno, spalancata. Il davanzale non era alto. Pian piano, tenendosi all'angolo, dove aveva minore probabilità di esser veduto, egli si accostò e spinse dentro gli sguardi. La stanza era piccola e fortemente illuminata. Le pareti erano tappezzate di una vistosa carta a grossi fiorami verdi e neri. Di fronte alla finestra, una tenda rossa, assicurata con anelli di legno ad una stecca di ottone, pareva nascondere una porta. Non c'erano mobili. Qualcuno sedeva in un canto, dalla parte della finestra. Se ne vedevano soltanto i piedi, allungati fin quasi in mezzo alla stanza, accavallati, calzati di scarpe gialle. Piedi, come pensò Agostino, di un uomo sdraiato comodamente in una poltrona. Agostino, deluso, stava per ritirarsi, quando la tenda si sollevò e una donna comparve. Ella indossava un'ampia veste di velo azzurrino che rammentò ad Agostino le camicie materne. La veste, trasparente, giungeva fino ai piedi. In quel velo, le membra della donna, viste come in un'acqua marina, si disegnavano pallide e lunghe, quasi fluttuanti in curve indolenti intorno la macchia scura del grembo. La veste, per una bizzarria che colpì Agostino, si allargava sul petto in una scollatura ovale che le giungeva fino alla cintola, e i seni, che aveva tondi e gonfi, ne sporgevano quasi con difficoltà, nudi e serrati l'uno contro l'altro. Poi la veste, che le circondava con molte pieghe fitte, si ricongiungeva al collo. Ella aveva i capelli disfatti sulle spalle, ondosi e bruni, e un largo viso piatto e pallido, di una puerilità viziata, con un'espressione capricciosa negli occhi stanchi e nella bocca dalle labbra arricciate e dipinte. Le mani dietro la schiena, il petto in fuori, ella uscì dalla tenda e per un lungo momento, in atteggiamento di attesa, stette ritta e immobile, senza parlare. Pareva guardare l'angolo in cui stava l'uomo, i cui piedi si scorgevano accavallati nel mezzo della stanza. Quindi, in silenzio come era venuta, voltò la schiena, sollevò la tenda e scomparve. Quasi subito i piedi dell'uomo si ritirarono dalla vista di Agostino. Ci fu come il rumore di qualcuno che si alzasse. Agostino, impaurito, si ritirò dalla finestra. Tornò sul viale, spinse il cancello e uscì sulla piazza. Adesso provava un senso forte di delusione per il fallimento di questo suo tentativo e al tempo stesso quasi un terrore per quel che l'aspettava nei giorni a venire. Nulla era accaduto, pensava. Egli non aveva potuto possedere alcuna donna. Il Tortima gli aveva portato via i soldi e il giorno dopo sarebbero ricominciate le beffe dei ragazzi e il tormento impuro dei rapporti con sua madre. Era vero che aveva veduto per un momento la donna desiderata, ritta nella sua veste di velo, il petto nudo. Ma intuiva oscuramente che questa immagine, insufficiente e ambigua, sarebbe stata la sola ad accompagnarlo nel ricordo per lunghi anni a venire. Erano infatti anni e anni che si frapponevano, vuoti e infelici, tra lui e quell'esperienza liberatrice. Non prima che avesse avuto l'età del Tortima, pensava, avrebbe potuto sciogliersi una volta per sempre dall'opaco impaccio di questa sua sgraziata età di transizione. Ma intanto bisognava continuare a vivere nel solito modo. E a questo pensiero sentiva tutto il suo animo ribellarsi, come per il senso amaro di un'impossibilità definitiva. Giunto a casa, entrò senza far rumore. Vide nell'ingresso le valigie dell'ospite, udì parlare in salotto. Allora salì la scala e andò a gettarsi sulla branda, nella camera della madre. Qui, al buio, tirando via con rabbia i panni e gettandoli sul pavimento, si spogliò e si mise sotto il lenzuolo. Poi aspettò, gli occhi sbarrati nell'oscurità. Attese un pezzo, gli parve ad un certo momento di assopirsi e dormì davvero. Ad un tratto si destò di soprassalto. La lampada era accesa e illuminava di schiena la madre che in camicia, un ginocchio sul letto, si apprestava a coricarsi. «Mamma!» disse subito con voce forte e quasi violenta. La madre si voltò e gli venne accanto. «Che c'è?» domandò. «Che hai, caro?» Anche la sua camicia era trasparente, come la veste della donna alla villa. E il corpo vi si disegnava come quell'altro corpo, in linee ed ombre imprecise. «Vorrei partire domani», disse Agostino, sempre con quella sua voce forte ed esasperata, cercando di guardare non al corpo ma al viso della madre. La madre, sorpresa, sedette sul letto e lo guardò. «Perché? Che hai? Non ti trovi bene qui?» «Vorrei partire domani», egli ripeté. «Vediamo», disse la madre passandogli discretamente una mano sulla fronte, quasi avesse temuto che fosse febbricitante. «Che hai? Non ti senti bene? Perché vuoi partire?» Agostino non disse nulla. La camicia della madre ricordava proprio quella della donna della villa, stessa trasparenza, stesso pallore della carne indolente e offerta. Soltanto che la camicia era spiegazzata e pareva rendere ancora più intima e furtiva quella vista. Così, pensò Agostino, non soltanto l'immagine della donna della villa non si frapponeva come uno schermo tra lui e la madre, come aveva sperato, ma confermava in qualche modo la femminilità di quest'ultima. «Perché vuoi partire?» ella gli domandò ancora. «Non stai bene con me?» «Tu mi tratti sempre come un bambino», disse ad un tratto Agostino, non sapeva neppur lui perché. La madre rise e gli accarezzò una guancia. «Ebbene, d'ora in poi ti tratterò come un uomo, va bene così? E ora dormi, è molto tardi». Ella si chinò e lo baciò. Spense il lume. Agostino la sentì coricarsi nel letto. «Come un uomo», non poté fare a meno di pensare prima di addormentarsi. Ma non era un uomo, e molto tempo infelice sarebbe passato prima che lo fosse. Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oli, oli. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente per paura di affogare. C'è qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze.